vera tarantella San Giustesa. Dire che si balla la mano con tutti i roti. Macarrone, soppressate e salsiccia. Bella tarantella. Giate alla Madonna, giate.